Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti alla trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che riprende un discorso cominciato già l'altra volta, ovvero sia la narrazione dello scrittore e sceneggiatore per fumetto Marcello Argilli su Vinicio Berti, che era il suo illustratore all'interno dell'esperienza del Pioniere. L'altra volta Argilli ci ha ben raccontato la vicenda, l'avventura clamorosa che ha accompagnato la nascita di Chiodino, il suo successo straordinario. Questa volta invece, sempre con le parole di Argilli recuperate in questo convegno del 93, parleremo della nascita, dello sviluppo e del successo altrettanto straordinario di Atomino, altro grande protagonista del Pioniere, questa volta durante gli anni 60. Chiodino, Atomino, sicuramente tutti personaggi nati dall'alter ego di Vinicio Berti, ovvero sia il Pinocchio di Collodi, un personaggio in cui davvero Vinicio Berti vedeva straordinarie qualità, come ci racconta lui stesso con le sue parole. Nel Pinocchio ora c'è un itinerario, sostanzialmente, che è che una tendenza a dire che bisogna camminare, bisogna andare oltre, bisogna ribellarsi a qualcosa, a qualcuno, anche se non lo vuole, poi si trova a scontrarsi con la realtà e Pinocchio si identifica, anzi, dirò la verità, la finale un po' dolciastra nel romanzo ci dà un po' di tristezza, che Pinocchio fosse migliore dopo non ci si crede molto da bambini, infatti l'ultima pagina e lo stesso Collodi probabilmente finì con questo rapido dialogo, dice come era buffo quando era un burattino e come sono contento di essere diventato un bambino per bene. Per quanto riguarda il fumetto e l'illustrazione per l'infanzia, il citato Pinocchio del 47 non è minimamente un unicum all'interno dell'iter evolutivo di Berti, ma neanche una, per così dire, nascita. Perché fin dalla seconda metà degli anni 30 e fino agli anni 90, Berti realizzò molte vignette e creò molti personaggi. Dal Gian Burrasca al Ciondolino di Vamba, da Chiodino e da Tomino, diffusi e tradotti in molti paesi del mondo, a Sgorbio ed ancora Pinocchio. È proprio il burattino di Collodi ad essere considerato da Vinicio Berti il suo ideale alter ego, alternativo, ribelle e proteso verso il futuro. Sul burattino tornerà più volte dopo il 1947, con un articolato fumetto con le sue scene e regia, come lo stesso artista l'ha definito. Da quella pubblicazione, prima nel suo genere, ne è nato un volume edito da Ponte alle Grazie e presentato a Roma, nel luglio del 93, da Marcello Argilli e Claudio Crescentini, per il Centro Internazionale Antino per l'Arte presso i Giardini di Castel Sant'Angelo. E allora, dopo questa premessa importante, andiamo a ascoltare le parole di Marcello Argilli, grande narratore per ragazzi, sulla nascita e lo sviluppo del personaggio Atomino. Il Pioniere cessa le pubblicazioni nel 62. Nel 63 l'Unità pubblica un inserto per ragazzi, decide pubblicare un inserto per ragazzi per l'Unità, che è delle pagine interne nero su un colore. Sono incaricato io di fare questo inserto e la prima cosa che penso è di lanciare un personaggio col nuovo giornale, di lanciare un personaggio. Mi viene in mente un personaggio Atomino. Logicamente a chi mi rivolgo? Mi rivolgo ovviamente a Vinicio Berti. Viene a Roma e mi ricordo una notte passata a casa mia a Roma in cui lui aveva delle grandi tavole e lui aveva una penna stilo con la china. Io dicevo, io vorrei un personaggio Atomino che esprime una grande forza, Bisognino. Sì, la forza però anche la grazia, Bisognino. Però un po' malizioso, Bisognino. Siamo andati avanti così tutta la notte e Vinicio ha riempito una serie di tavole con tutte strisce, ogni striscia perlomeno 10 personaggi, perciò centinaia di personaggi, con questo unisono insieme che lui, io esprimevo quello che volevo, lui cercava di rendere graficamente, interpretare graficamente, ma dandogli una personificazione che solo lui poteva dargli, questo personaggio che era un atomo bambino, anche qui siamo nella fantascienza, un atomo bambino. E mi ricordo che a un certo punto, ormai l'alba, avevamo anche finito una bottiglia di whisky, allora lo vedo che fa il disegno e poi fa, non si può andare oltre. Cioè aveva intuito perfettamente che quella era l'unica forma possibile per quel personaggio. Personaggio pubblicato su Quell'inserto dell'Unità, e nasce questo personaggio. Perché lo appassionava Tomino? Altra sua grande passione che è stata, quella di Chiodino, è durata 10 anni. Ha convissuto con questo personaggio settimanalmente per 10 anni, con Tomino circa 3 anni. E al solito il filo, Pinocchio, Chiodino, Tomino. Pinocchio, società agricolo artigianale. Chiodino, società industriale. Tomino, società atomica, fantascientifica, avveniristica. Di nuovo qui c'è un altro ritorno, è la passione sua per la fantastica moderna, la capacità di fantasticare nelle cose di oggi e nei prodigi e nella società già di per sé fantastica nel bene e nel male di oggi. Questa era la sua grande capacità d'artista, di questa fantasia. E gli veniva anche questa sensibilità da un'istintiva, istintiva, perché lui non ha mai parlato di un libro di pedagogia che abbia letto, istintiva, un artista che istintivamente intuiva le trasformazioni che erano avvenute nell'immaginario infantile, che è la cosa fondamentale per entrare in rapporto con i ragazzi e con i bambini. Spesso noi ci rivolgiamo ai bambini, supponendo in loro un immaginario che è parte dell'immaginario nostro infantile, nato in condizioni, in ambienze, in società, con valori simili, con eventi diversi. Lui invece intuiva proprio queste trasformazioni dell'immaginario infantile, un immaginario infantile sempre più influenzato dai mass media. Io penso che un'altra chiave per capire la capacità di parlare col disegno, con le immagini ai bambini, sia questa sua enorme sensibilità e capacità di comprensione e di dominio delle forme audiovisive. Cinema soprattutto, televisione. Per esempio lui aveva una piccola telecamera e io ho visto delle sue riprese televisive di una capacità, di inquadramento, di sviluppo di immagini che erano eccezionali. Era un appassionato del cinema, era un appassionato, come dicevo, dei fumetti, era un appassionato di sport. La Fiorentina per lui era, per anni e anni ha seguito la partita della Fiorentina. Il pioniere dell'Unità accesso alle pubblicazioni nel 66, 3 anni e mezzo di tavole settimanali da Tomino. Ecco, sul pioniere dell'Unità, oltre che sul pioniere vero e proprio, c'è un'infinità di materiale illustrativo, occasionale, cose che venivano stampate, fatte in un giorno, commissionate per telefono dopo che lui ha vinto l'idiosincrasia telefonica e si era finalmente stabilito un rapporto telefonico, e sennò i nostri rapporti trentennali, salvo le visite che facevamo, erano sempre per lettera. Poi a un certo punto ha deciso di mettere il telefono. Perciò lavori che venivano fatti immediatamente. Ecco, per esempio questa è una favola russa tradizionale in cui si vede la capacità di disegno che ha dell'esotico, che ha del classico, e allo stesso tempo come è vicino a una sensibilità di lettura moderna. Questi ci sono infinità, come per esempio, ecco, questi sono originali stampati su un giornale, cioè su carta di giornale, in cui disegni fatti in poche ore, in cui si vede un'altra sua capacità. Come tutte le persone che si rivolgono seriamente all'infanzia e che hanno una base culturale forte, la modernità di Vinicio consisteva anche nella capacità di capire quali erano, come dire, i patrimoni di fantasie, di immagini tradizionali dell'infanzia, le fate, gli animali, i re, e come lui li recepiva, nel suo tempo li rielaborava in una forma che non era stucchevole, che non dava a volte fastidio di sentire una cosa vecchia al bambino, però gli dava il senso del favoloso antico, che glielo faceva percepire in un'immediatezza di sensibilità propria, sua. Un'altra cosa da notare, che nessuno ha notato, è che i fumetti di Chiodino e di Tomino, centinaia e centinaia di tavole, decine e decine di storie, hanno avuto un notevolissimo successo all'estero, sono stati i primi fumetti italiani esportati all'estero, sono pubblicati in Finlandia, in Francia, in Uruguay, in Jugoslavia. Un'altra cosa, questa è una curiosità, i fumetti

grandi fumetti. Dylan Dog di Tiziano Sclavi. La seconda parte della trasmissione entra in una chiacchierata con Tiziano Sclavi sul suo personaggio Dylan Dog e capiamo quanto dell'autore entra nel fumetto e quanto il fumetto entri nell'autore. Io, a differenza di Dylan Dog, bevo, fumo, faccio tutto il contrario di Dylan Dog. Il Maggiolino è stata la mia prima macchina e il Maggiolino in versione cabriolet è diventata anche la macchina di Dylan Dog. Mi piaceva molto, anche se devo dire era all'epoca la macchina che io non avrei dovuto comprare, per le mie idee politiche non avrei dovuto comprarla. All'epoca era la macchina proprio, diciamo, erano altri tempi, era la macchina dei giovani fascisti. È importante per tutti i personaggi seriali avere dei punti fissi, più sono meglio è. Dylan Dog su questa scrivania fa delle cose. Ha il galeone che io ho, è giù in cantina ma ce l'ho, poi guarda i rapporti che gli dà Block, guarda, cioè ci lavora insomma, per cui sono elementi essenziali. Lo stesso, le poltrone, io avrei voluto mettercene molte di più, però ci sono difficoltà tra i vari disegnatori, insomma. Il lavoro di serie è fatto proprio brutalmente come si fa da Bonelli, prevede che poi il materiale narrativo, letterario, deve essere maneggiato da personaggi, disegnatori con personalità differenti, no? Con competenze, con gusti diversi. Per cui è un personaggio che ha tante sfaccettature. Ovviamente ognuno in qualche modo ne fa una lettura personale o coglie un aspetto piuttosto che un altro. Nel corso del tempo lo sceneggiatore che deve gestire un parco di disegnatori, che erano 12 o 13, mi ricordo, arriva a capire insomma che sintonia ha col proprio dettato il disegnatore col quale. Tiziano Sclavi avrebbe preferito un disegnatore neutro, no? Che disegnasse un po' come i geroglifici egiziani. In realtà questa è una cosa abbastanza impossibile, anche se qualche sceneggiatore si picca di poter creare un codice, no? Dove non ci sia la mano e il temperamento del disegnatore, però io questa la pavento come una sciagura, perché per fortuna esistono personalità e devono essere rispettate. Dylan Dog è stato creato, sì, da me, però discusso molto con Bonelli e con Canzio. Per cui, non lo so, il fatto che lui suoni il clarinetto, ecco, ovviamente copiato da Sherlock Holmes che suona il violino, c'è un prologo dove succede una cosa straordinaria, horror, fantastica, poi c'è un cliente, o meglio, una cliente che va da Dylan Dog, lui indaga, intanto succedono delle cose, altre cose incredibili, ci sono degli intermezzi con Grucio, si dovrebbe dire Groucho, ma io dico Grucio, anche perché non è Groucho Marx, è un sosia di Groucho Marx, per cui lo chiamiamo Grucio, poi altre indagini e poi il finale in cui si risolve la cosa. Questo è lo schema narrativo. Ovviamente in ogni numero dobbiamo trovare delle variazioni, se no è sempre uguale. Io ero imposto una battuta ogni volta che appare Grucio. È una cosa un po' difficile, anche perché quando ho cominciato non c'erano tante risorse. Adesso c'è internet dove mi dicono, io non l'ho mai fatto, ma che tu in un motore di ricerca scrivi freddure e ne trovi mille. Io no, io me le dovevo inventare, oppure tra virgolette copiare da quel poco che avevo. Devo dire, Grucio sì, è molto difficile. E poi in tutto lo schema narrativo trovare sempre nuove variazioni, sennò diventa l'ispettore Derrick, diventa sempre uguale. È sempre più difficile trovare delle battute, delle variazioni su questo schema. A volte lo schema viene completamente stravolto ed è giusto che sia così. Io ho fatto storie come Storia di Nessuno piuttosto che Morgana che hanno contribuito enormemente al successo, parlo di successo economico di Dylan Dog. Cioè a vendere, come siamo arrivati a vendere, 1 milione di copie. Queste sono storie pazzesche, alla Joyce. Io se le rileggo oggi non ci capisco niente. eppure sono piaciuti. Io preferisco trovare l'ispirazione nei Bundebrock piuttosto che in un romanzo di Stephen King, trasformarlo e farlo così. Se sapessi spiegarlo, non lo so, se io vedo una commedia mi viene in mente subito di introdurci degli elementi horror, ma sempre come commedia, e di farne una storia. C'è anche da dire che Dylan Dog è nato nell'84. Allora avevo una grande passione per l'horror, anzi non per l'horror, per il nuovo horror, che era splatter. Oggi non la condivido più, non mi piace più, anche perché se ne fanno pochi di belli. Via via nel tempo, almeno per quanto mi riguarda, per le storie che scrivo io, abbiamo deviato sempre di più verso la commedia, diciamo all'arsenico vecchi merletti, ma addirittura anche verso la commedia pura, senza elementi horror. Se noi possiamo permetterci qualche sorta di libertà adesso, che non sia più quella strettamente legata ai canoni dell'intrattenimento avventuroso, lo dobbiamo a Dylan Dog, che si è permesso di scomodare temi come l'inconscio, l'incubo, il sogno, insomma, per cui usando materiali volatili, no? Umorali, legati alla sua sensibilità. Infatti ha tirato fuori un personaggio, parlava tanto dell'antieroe, ma quello è l'antieroe per eccellenza, il personaggio sempre, costretto dentro queste sue paure, no? Che in qualche modo sublimava, riuscendo a trovare l'approccio giusto con queste situazioni, cioè metaforizzandole, allegorizzandole. Aveva quella malattia giusta, no? Il personaggio era un personaggio timido che cercava di sfuggire dalle bollette del telefono, del gas, per andare a scoprire, non so, dove era il cadavere sumero nella casa infestata, per esempio. Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. Non vivo solo, ho un aiutante, Gnaghi. Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari tutti. Il cimitero è piccolo, ma ha un magnifico ossario. Ah, ma no. È uscito dalla tomba, l'ha violentata e sgozzata con un morso. È andata così? È vero. No, ti prego. Lui mi sta solo mangiando. Vorrei sposare Gnaghi. Se vuoi evitare che i cadaveri ritornino in vita, tanto vale che tu uccida i vivi. Io non ho tutte le sue qualità, non ho la sua bellezza, non ho la sua capacità di avere così tante fidanzate, non avevo, adesso sono sposato, non posso più avere. Quindi ha molto di me, diciamo dal punto di vista, uso una parola grossa, ideologico. Non molto di me dal punto di vista della vita, io non ho mai avuto una vita così. Come prima idea era nato in maniera totalmente diverso. Era un detective alla Chandler, molto triste, molto anche banale, devo dire. E grazie alle discussioni in redazione con Bonelli e Canzio l'abbiamo trasformato, l'abbiamo reso diverso. Gli abbiamo dato una spalla che non era prevista. Gruccio non era previsto. Era un personaggio solitario, il classico detective col cappello pieno di pioggia che va nella strada coi vapori che salgono dai tombini. Devo dire una cosa che mi costerà il posto. Questo purtroppo è un luogo comune dei fumetti e anche del cinema. Misteriosamente a un certo punto i lettori vogliono sapere il passato del personaggio. Io sono contrario, però l'ha fatto Indiana Jones, lo devo fare pure io, insomma. Io gli ho costruito un passato tutto un po' fantasy, in questo senso il numero 100 è molto fantasy, e quindi un passato aperto a qualsiasi cosa. Potrebbe essere andata così piuttosto che in un altro modo, però io personalmente sono per il personaggio senza passato. Piaceva che rimanesse più misterioso, dopodiché ci sono episodi del suo passato che mi piacciono, per esempio il lungo addio, ecco, quello mi piace, altri episodi non mi piacciono. Questa storia di Xabaras, francamente, io ho fatto delle storie, non dico politiche, diciamo sociali, però non è compito del fumetto fare queste cose, è difficile, molto difficile fare. O ti metti lì e fai pazienza della situazione, e va bene. Però in una serie popolare, ma non è tuo compito, non è quella la sede per attaccare Tony Blair piuttosto che Berlusconi. Faccia le streghe è un numero di cui vado fiero, ma non è piaciuto a nessuno, non so perché. Era l'epoca in cui c'erano molti imitatori di Landò. Di Landò ha dato la stura a una serie infinita di imitazioni, non dico brutte, perché non, però molto forti, molto più splatter. Questo ha provocato addirittura un'interrogazione parlamentare, in cui, devo dire, di Landò non c'è mai entrato. In tutta la polemica sui fumetti splatter, sui fumetti sanguinari, eccetera, di Landò non è mai stato nominato, né dai giornali, né da questa interrogazione parlamentare. Mi ha fatto particolarmente dispiacere che uno dei firmatari dell'interrogazione parlamentare fosse Luciano Violante. Nei primi anni Ottanta c'era questa divisione che a me dava un fastidio tremendo tra fumetto d'autore e fumetto popolare. Ecco, questo mi dava un fastidio tremendo. E una delle cose che ho voluto fare con Di Landò era di rompere questa divisione. Devo dire, non lo dico io, ci sono riuscito. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?